La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci insieme, come sempre o come ogni sabato a quest'ora, a raccontarvi il cinema qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi in questa settimana pasquale, e che quindi rappresenta un po' la punta della stagione cinematografica primaverile, non fosse che per il giorno festivo di lunedì di Pasqua, che oltre alle gite fuori porta spesso può essere anche un giorno cinematografico, ma anche perché adesso comincia una serie di ponti, un periodo nel quale forse si giocano le ultime carte grosse di questa stagione cinematografica. In effetti, dando un'occhiata alle uscite di questa settimana, si trova parecchia roba, insomma, è anche parecchia roba buona, come si potrebbe dire. Sono 10 film nuovi nei nostri cinema, ma almeno una mezza dozzina di cui vale la pena parlare. Tra l'altro lo faremo qui anche con un paio di ospiti importanti, perché avremo un'intervista esclusiva con Tony Servillo per il film Lasciati Andare e un'altra con Pierfrancesco Favino per Moglie e Marito. Quindi, insomma, due film italiani, due commedie di qualità, di diversa qualità, ma comunque che cercano di entrare, di far ridere anche con raccontando un po' uno spaccato del nostro tempo e del nostro mondo. E poi anche tanto cinema d'autore importante che arriva nelle sale. Cominceremo fra poco proprio con Personal Shopper. Vi ricordo il nostro indirizzo Facebook, della pagina Facebook La Rosa Purpurea Radio 24. Cliccate mi piace e state in contatto con noi. Vi ricordo che giocheremo come sempre insieme con il DVD game e con il film misterioso da indovinare, con due Blu-ray di un film veramente, veramente spettacolare di questa stagione che vi aspettano. Per cui fate le debite premesse, entriamo in clima agonistico con il primo film di questa settimana. Si intitola, dicevo, Personal Shopper, ha una firma importante nel cinema d'autore, nel cinema francese contemporaneo, quella di Olivier Assayas. Ascoltiamo la clip. Non hai nulla di meglio da fare che vestire Kira? Aspettare. Cosa stai aspettando? Mio fratello gemello Lewis è morto qui 95 giorni fa. Il primo a morire avrebbe mandato un segno all'altro. Un segno dall'aldilà? E allora, è la storia di una giovane donna, Maureen, americana, ma che vive a Parigi e lavora, appunto, come recita il titolo, come personal shopper. Praticamente compra vestiti per una star di grande personalità, anche molto esigente. Ha un budget praticamente illimitato, ma ha anche una richiesta molto particolare, quella di un contatto con l'aldilà, per poter dire definitivamente addio al fratello gemello Lewis scomparso da poco. Protagonista di questa storia bizzarra che ha appunto la mano di regia di Olivier Assayas e Kristen Stewart, quindi un volto importante del cinema americano. Noi siamo già in collegamento con Boris Sollazzo. Boris, intanto ben ritrovato qui alla Rosa Purpurea. Diciamo che per essere Pasqua questo è un film un po' particolare, insomma un film nel quale il contatto con l'aldilà è un po' la chimera che si vuole raggiungere da parte della protagonista. Sì, diciamo che non si cerca una resurrezione ma solo un'apparizione, ecco, non è così presuntuoso Assayas da cercare qualcosa di così forte, però è vero che insomma forse si è più sensibili in un momento come questo. Personal Shopper è di sicuro un film molto molto interessante, come quasi sempre lo sono i film di Olivier Assayas. Anche quelli meno riusciti hanno un nucleo di interesse, di emotività, di visioni, di capacità di tirar fuori soprattutto dagli attori e dalle attrici ancora di più qualcosa di speciale da renderti i suoi film un po' fuori classifica, nel senso che poi non è importante quale sia il gradimento quanto l'arricchimento. Personal Shopper è un po' tutto, nel senso che da Silvia prende il rapporto quasi succube di Kristen Stewart con una grande diva, una personalità importante. In quel caso in Sils Maria c'era la persona ed era un rapporto diretto, qui è sostanzialmente mediato dall'assenza invece, e di fatto Kristen Stewart è una protagonista assoluta. C'è però anche quella visione un po' fantasy, un po' astratta di Assayas, che ha sempre avuto anche un cinema molto spirituale, e quindi c'è questo momento alla meravigliosa presenza di Ospedec, in cui c'è una casa non si sa se è infestata, abitata da un fantasma che lei deve trovare, cercare, pur essendo scettica, quindi sempre in eterna contraddizione. Il cinema di Assayas ha questo pregio di essere un cinema della contraddizione. Nel film, in uno dei film più sexy che fa, che è proprio Personal Shopper, pensiamo al momento in cui Kristen Stewart si cambia e ruba, tra virgolette, i vestiti della diva per cui lavora, cosa che gli è preclusa, c'è anche però tantissimo incorporeo, e non parliamo solo dello spirito, ma parliamo per esempio anche di come riesce a raccontare benissimo a Assayas un rapporto di tensione, non solo erotica, attraverso un cellulare, attraverso uno smartphone, cioè qualcosa di estremamente neutro. È un film molto classico e molto moderno insieme. Non è un film per tutti i palati, perché tutto questo che abbiamo detto è tutto dentro un minestrone. Secondo me è cucinato benissimo da Assayas, ha la capacità di tenere gli ingredienti tutti del giusto dosaggio, però forse potrebbe essere troppo carico per alcuni. Bisogna avvicinarsi con una certa sensibilità, bravissima secondo me Kristen Stewart, un po' rovinata dal doppiaggio italiano. L'altro giorno dicevi che Victor Hugo, in effetti, che lui comunicava con gli spiriti. Sì. Cosa intendevi? Volevi dire che ci parlava? Sì, quando era in esilio nel Jersey conduceva sedute spiritiche. Lui conversava con personaggi storici, anche biblici, sai? È un po' folle. Come? Con il tavolo a tre gambe. La gamba batteva per terra, una volta per il sì, due per il no. E poi una volta per la A, due per la B e così via. E 26 per la Z. Ma così ci mettevano non si sa quanto tempo. Sì, ci sono pagine e pagine di trascrizioni. E con la cronaca della seduta spiritica noi abbandoniamo Personal Shopper di Olivier Assayas, la prima proposta di questa settimana. Linea alla viabilità, fra poco torniamo e affrontiamo la prima delle commedie italiane di questo weekend. Moglie e marito, sarà con noi Pierfrancesco Favino. La rosa purpurea. La rosa purpurea che prosegue, come annunciato, con Moglie e marito, il film commedia diretto da Simone Godano, con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Valerio Aprea nei ruoli principali, di questa storia molto, molto singolare, che sfiora quasi il fantasy nella sua premessa, ovvero una moglie e un marito, appunto, lei una star dei talk show televisivi, lui un neurochirurgo infantile che però è un grande ricercatore, ha un grande sogno, sta lavorando a un progetto, quello di una macchina che possa di fatto visualizzare i pensieri, diciamo così. Ma quando una sera si mette a fare l'esperimento in casa con sua moglie, della quale non ne può più, e infatti il film comincia con una seduta dall'avvocato divorzista, succede qualcosa, succede che per un bug le personalità dei due si scambiano, la personalità della moglie entra nel corpo del marito e viceversa, e tutto non è più come prima. La qualità della relazione si basa sulla capacità di immedesimarsi nell'altro. Oh, cazzo! Sei Andrea, sì. Sophie, non so come sia successo, dovrebbe solo trasmettere i pensieri. Cazzo, sembra che abbia scambiato proprio tutta la mente. Oh, cazzo, c'ho la figa. Allora, avete capito che si tratta di un transfer, diciamo così, tra un corpo e un altro, tra una mente e un'altra soprattutto. Come si starebbe nei panni di una bionda? Avremmo detto con un film degli anni 90, come si starebbe con la testa di un uomo nel corpo di una donna? Come si vedrebbe il mondo con quegli occhi? E viceversa, potrebbe aiutare a conoscerci meglio, forse uscire anche da una crisi matrimoniale? Boris, la premessa, secondo me, di questo film è fortissima, cioè è proprio un film che, siccome lo puoi raccontare all'amico in tre parole, ha un'efficacia di comunicazione veramente, veramente grande. L'altro punto di forza, a mio modo di vedere, è la sceneggiatura, che è scritta in maniera molto americana, con le cose che succedono esattamente quando devono succedere. Due attori che, secondo me, offrono due prove molto diverse fra di loro, ma di grandissimo livello. E la capacità di non perdere di vista l'obiettivo principale di una commedia, che poi alla fine è quello anche di far ridere. E questo film in molte occasioni fa davvero ridere. Non so se la pensi così. Assolutamente sì, e sarei tentato di dire sostanzialmente concordo e basta, perché il film è davvero quel tipo di film perfetto, non nel senso di capolavoro, ma che ha portato tutte le sue doti a compimento, cioè sostanzialmente la regia è ordinata, è lineare, intelligente e non banale, la scrittura, come dicevi tu, è una scrittura arguta, molto all'americana, che non si fa sfuggire le migliori occasioni per far ridere, ma non cade neanche nella scorciatoia di trovarne alcune che magari insomma sono troppo volgari o troppo facili, e trova due attori in grandissima forma. A mio parere moglie e marito è la dimostrazione di come il ricambio generazionale in Italia può esserci, in parte lo stiamo vedendo. Quando i Rover, i Mainetti e i Godano arrivano, portano anche un immaginario chiaramente molto statunitense, perché sono cresciuti con i film degli anni Ottanta, questo insomma prende a piene mani da Nei panni di una bionda, ma anche da Big, se vogliamo, e lo mettono a frutto però molto all'italiana, perché che cosa fa Godano? È intelligente, prende Kasia Smutniak, bella, bellissima. Noi pensiamo che sia una star della TV nel film, poi scopriamo che in realtà è una precaria, in realtà è odiata da tutti in redazione o comunque dalla conduttrice. Lui è vero, è un geniale neurochirurgo, ma un geniale neurochirurgo che con la sua ricerca tenta disperatamente di avere una borsa per poter campare, per poter riuscire a essere realizzato. Lui punta tutto su quella borsa, perché appunto si sente un fallito nonostante sia geniale. Ecco, questa parte anche politica, che però non vuole essere assolutamente pesante, si aggiunge a una commedia in cui Kasia Smutniak è straordinaria. Io non so se siamo noi uomini ad avere poche sfumature e quindi è più facile imitarci, ma lei ha proprio una capacità di trovare all'interno del suo essere maschio anche dei gesti, delle parole, delle piccole sfaccettature che magari non ci accorgiamo neanche noi uomini. Per Francesco Favino si diverte di più a rifare il vizietto, se vogliamo. Il suo è un uomo molto effeminato, lui si diverte moltissimo, lo fa benissimo, è sicuramente l'elemento comico, mentre lei è l'elemento più serio. Il tutto in un contesto in cui non c'è solo la risata facile, ma c'è anche la riflessione, e questo non è poco, è proprio il tipo di commedia commerciale ma intelligente di cui abbiamo bisogno, anche forse per risorgere commercialmente. Assolutamente, infatti è proprio il ragionamento che si fa da parecchio tempo anche qui alla Rosa Purpurea, cioè di un cinema industriale che serve poi comunque anche a fare massa e a portare la gente a un divertimento vero con un film di intrattenimento. Dicevi giustamente tu, dicevamo prima, Boris, il tipico film di cui si dice non sembra un film italiano, e questa è proprio la domanda con cui inizia la nostra intervista a Pierfrancesco Favino. Un marito, una moglie, due personalità che si trasferiscono, come ci si prepara a un ruolo così? Ma guarda, in realtà nella storia stessa c'è una cosa che non voglio spoilerare, in cui però quello che si svela è che in realtà questo scambio è uno scambio relativo. Nel senso, c'è un momento in cui si riesce, io, per quanto nei panni di mia moglie da neurologo, capisco che cosa è realmente avvenuto, e quindi è più la convenzione di se stessi di essere entrati in qualche modo in una dinamica altra da sé che genera questo scambio che viene fatto da una macchina. Il nostro è un film che parte da un principio che è assolutamente fantastico, cioè che questa macchina sulla quale io sto lavorando in quanto neurologo, neuroscienziato, riesca per un bug a fare questo scambio. Però l'intuizione, secondo me molto bella, di scrittura e anche di regia, è che proprio grazie a questo aspetto fantastico poi alla fine si riesca a parlare della verità, si riesca ad arrivare a una modalità quasi realistica. E rispetto al discorso che facevi tu, forse è questo che ne connota un po' un aspetto che noi generalmente non sempre facciamo o non facciamo più, perché poi invece, se ci pensi, ci sono tantissime commedie italiane magari lontane nel tempo, ma mi viene in mente Papà diventa mamma, che è un film di Aldo Fabrizi degli anni 50, in cui più o meno c'è uno scambio del genere. Il tema dello scambio è un tema classico, tanto è vero che il film secondo me si inserisce all'interno di questa categoria, cioè è una commedia classica di situazione. Per il resto la trovo assolutamente inserita in una maniera molto molto buona nella realtà italiana, i personaggi sono assolutamente riconoscibili, non c'è uno sforzo a farli aderire ad una realtà che non sia la nostra. Vedi dal punto di vista delle difficoltà economiche che hanno, vedi dal punto di vista di quello che loro fanno entrambi in una situazione o ospedaliera nel mio caso, oppure di un talk show televisivo nel caso del personaggio di Cash. C'è una frase bellissima secondo me che nel tuo film, nella quale voi vi chiedete cosa salveresti di questa esperienza, no? Cosa può salvare un uomo di questa esperienza tutta artistica di essere nei panni di una donna? Io credo che la cosa molto bella del film sia il fatto che entrambi, fuori da questa situazione, si rispettano in una maniera completamente diversa. Io penso che quello che, bueno, l'abbiamo visto in questi giorni, le persone che hanno visto questo film hanno avuto questa reazione di grandissimo divertimento durante il film, però la commedia diventa la possibilità di trasmettere, senza voler insegnare niente a nessuno, in una maniera lieve un messaggio molto profondo, che è quello effettivamente del rispetto reciproco e di come probabilmente riuscire a far funzionare una coppia. Cioè, se noi veramente riuscissimo per un attimo a togliere di mezzo noi stessi e a entrare nella vita dell'altro e a far nostra la vita dell'altro, come si dice dall'inizio, cioè una battuta che contiene il termine empatia proprio ad inizio del film, ecco, quella cosa lì penso che sia la chiave di volta della storia. Per riuscire ad essere empatici bisogna effettivamente sentire quello che sente l'altro e mettersi onestamente nei panni dell'altro, senza aspettarsi che l'altro debba fare per forza qualcosa per noi, oppure riuscire a non confondersi totalmente nell'altro, quindi non confondere anche le proprie frustrazioni, le proprie rabbie. Ecco, quello penso possa essere una piccola ricetta perché due persone come i nostri due protagonisti poi riescano a stare insieme in una maniera finalmente paritaria. Ecco, questo è un messaggio che a me piace tanto. Alla fine i nostri sono una coppia veramente alla pari. C'è un'altra cosa interessante, e che è la tua gestualità, per esempio di come ti tocchi i capelli quando sei sul water per vomitare. Come hai lavorato a questo aspetto del tuo personaggio? Ma io mi sono lasciato molto libero anche di usare un po' il cliché. Ecco, c'è una cosa di gusto un po' in generale, in cui quando si fa la commedia sembra comunque che ci si debba trattenere rispetto ad alcune cose, mentre io invece mi sono proprio voluto divertire. Perché ogni tanto sento che c'è una castrazione di un gusto che, sapendo, voglio dire, nelle mani di chi eravamo, sapendo anche i colleghi con cui lavoravo, non avrebbe mai travalicato nel cattivo gusto. Però la libertà di divertirmi anche un po' a soddisfare il cliché di quella cosa lì, per cui scordandomi anche un po' Cascia, ma volutamente andando in una direzione di quello che è anche l'immaginario cinematografico dell'uomo che diventa donna. Insomma, molto spesso nei film citati si parla di quei film come punti d'arrivo, dove, se vedi, mi viene in mente Steve Martin, ne faceva di ogni, no? C'è un po' una sensazione di castrazione rispetto a quello che facciamo noi, come se la dovessimo giudicare con una lente di ingrandimento un pochino più grande, e questo non concordo. Per me è stata una grandissima liberazione potermi permettere di fare le cose che pensavo in quel momento fossero giuste, e quindi mi sono lasciato libero di usare una mimica volutamente più ammiccante a un certo tipo di mondo. Un giorno da donna, quale sarebbe la prima cosa che faresti? Una ceretta, è ovvio. Ma io ho una relazione con la mia babysitter. E che moglie da me? Mamma e papà sono capovolti. Papà vuole che faccio pipì seduto e mi bacia tanto. Vabbè, però a livello di italiano mi pare ottimo. Hai forzato tutti i nostri conti da un avvocato divorzista. Io non ci voglio stare con una cappera, poi mi gira le spalle. Le manchi, mi manca come eravamo. Pier Francesco Favino, moglie e marito, La Rosa Purpurea, siamo al momento di giocare insieme, di cominciare a giocare insieme con la prima traccia del nostro film misterioso di oggi. Quindi lasciare libero un branco di pericolose creature è stato solo un altro incidente, è così? Perché avrei dovuto farlo apposta? Allora, un branco di pericolose creature, stiamo giocando con un film di questa stagione. Se avete già indovinato di che film si tratta, scriveteci alla Rosa Purpurea @radio24.it con il vostro indirizzo, mi raccomando, per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film. Più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia. Adesso linea alla regia, fra poco torniamo, ci aspettano i rombanti motori di Fast and Furious 8. La Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea prosegue con il film che scalzerà La Bella e la Bestia dalla vetta della classifica dopo, insomma, qualche tempo. Ormai siamo arrivati a un buon mese dallo sfruttamento, dall'uscita della Bella e la Bestia, che è rimasto sempre in testa alla classifica. Forse forse l'ultimo mercoledì a 2 euro, a 3 euro, anzi in questo caso ha un po' dato il colpo di grazia, perché pensate, nella giornata di mercoledì scorso La Bella e la Bestia è stato visto da quasi 300.000 spettatori, cioè mi viene da dire tutti gli ultimi che non l'avevano visto sono andati a vederlo, e quindi il suo risultato, che adesso è appena sotto i 20 milioni, sta per diventare secondo me assestato, ancora qualche colpo da sparare, ma insomma siamo lì. E allora, qual era il film atteso di questa parte della stagione che poteva diventare il nuovo numero uno negli incassi? È Fast and Furious 8. Ascoltiamo la clip. Ascoltatemi, squadra. Questo gruppo è una famiglia, ma il gioco è cambiato ora. Dominic Toretto ci ha tradito. Vuoi voltare le spalle alla famiglia? Lo so che ne esce male, ma non lo giudicate. Abbiamo una sola possibilità, di far tornare questa famiglia unita. Non farlo, Dom. Boris, mi sono annoiato solo sentendo la clip, penso che sia il record del mondo di noia, non so se è così anche secondo te, voglio dire questo, ovviamente gli estimatori di Fast and Furious ci diranno che siamo troppo difficili, no, non siamo difficili, è che siamo arrivati al capitolo 8, cioè voglio dire, le cose da dire sono state dette, è stato fatto tutto quello che si poteva fare nei primi 3, 4, 5 capitoli, adesso la saga si sta semplicemente perpetuando, sempre a livelli tecnici altissimi, a livelli spettacolari irraggiungibili, però ecco, forse qui la famiglia, siamo tutti una famiglia, forse mi sa che siamo un po' alla frutta per quanto riguarda la parte più di racconto, no? Ma guarda, io in tutta onestà sono un Fast and Furiosofilo e devo dire mi diverte molto questa parte, a livello critico sono veramente d'accordo con te, intendiamoci, però mi diverte tantissimo questa svolta che ha avuto la saga, che ha cercato di raccontarsi come un western metropolitano per la prima parte, diciamo per i primi 4-5 capitoli, quindi seguendo anche delle regole classiche, fin troppo classiche, fin troppo antiquate, anche se molto molto divertenti, per poi diventare una sorta di palla di fuoco emotiva cinematografica in cui l'unica esigenza era fare un film di supereroi, dove i superpoteri erano le macchine, con l'eccesso come unica regola, e quindi il tentativo di stupire lo spettatore attraverso ogni tipo di inseguimento, ogni tipo di utilizzo delle macchine come armi e come qualsiasi tipo potesse essere di veicolo per il supereroe stesso, insomma, non solo a quattro ruote. E Fast and Furious 8 è il parossismo di questo cambiamento, senza avere, secondo me, l'intelligenza, l'ironia e anche la forza drammatica del 7, che chiaramente era anche aiutato dalla scomparsa di Paul Walker. Ed è vero che in qualche modo in alcuni momenti sembra un'autoparodia questo insistere sulla famiglia. Devo dire che quella clip è particolarmente infelice, perché comunque se vi piace Fast and Furious e la sua saga vi divertirete come matti anche a questo. Se però pensate che stia andando migliorando, no, a mio parere il 7 di questa seconda parte rimane il migliore, e questo è l'inizio di un declino. Soprattutto temo per Vin Diesel, che ha raggiunto una fissità espressiva ormai drammatica, quasi alla Chuck Norris. Sei pronta? Una cosa te la garantisco. Nessuno è pronto per questo. Lei è la definizione in persona di terrorismo high-tech. Ci sono migliaia di auto in questa città e ora sono tutte mie. Le nostre vite si sono incrociate, solo che non lo sapevi. Credo di doverti ricordare perché hai scelto di stare qui. Io non l'ho scelto! Fast and Furious 8, comunque, a dispetto di tutto quello che possiamo dire noi, sarà il nuovo leader della classifica degli incassi, quindi ne parleremo poi settimana prossima. Giochiamo ancora insieme, perché c'è la seconda traccia misteriosa di oggi. Lei è quello con la valigia piena di mostri, eh? Le notizie volano. Speravo che fosse in grado di dirmi se ci sono stati avvistamenti, tracce e cose così. Cioè, deve essere stato un aumento del picco glicemico in redazione, perché hanno fatto la clip più dolce del mondo, cioè oggettivamente questo è un regalo di Pasqua, diciamo così, manca solo il nome e cognome e siamo a posto. Comunque, se non avete davvero indovinato ancora di che film si tratta, insomma, ma se lo avete fatto, scriveteci alla Rosa Purpurea, @radio24.it, il vostro indirizzo. Fra poco sveliamo il film misterioso, come sempre, prima della fine della puntata vi diciamo di che film si tratta, e settimana prossima invece annunciamo i vincitori. Noi ci lasciamo andare, andiamo avanti, ci lasciamo andare con un film che si intitola appunto Lasciati andare, il gioco di parole era facile, ma che è un'altra commedia italiana molto interessante di questa settimana, come abbiamo detto in apertura, proprio contrassegnata da un paio di commedie di grande ambizione e di ottima qualità. Lasciati andare, nel cast Tony Servillo, praticamente alla sua prima prova di commedia al cinema. A teatro chiaramente è stato protagonista di altri spettacoli, ma qui al cinema forse è la prima volta che lo vediamo in maniera così apertamente comica, anche in questo caso nella storia di uno psicanalista che trova il suo, come dire, il suo la cartina al tornasole che gli farà cambiare un po' il modo di vedere la vita in una accesissima e piccantissima personal trainer. Comincio ad aver paura che non cambierò mai. Nella vita non si cambia. Ma io vorrei almeno guarire. Nessuno ha mai parlato di guarire, tutto il più possiamo riflettere sui motivi della sua sofferenza. Tua madre esce con un altro uomo, più giovane, più atletico di tuo padre o di me. Ma era ora. Non mi interessa un fisico scolpito, chiaro? Quello te lo puoi prescordare. Forse sei un po' fuori forma come seduttore. Analista che si fa guidare dalla personal trainer, questo mi mancava. E allora avete sentito alcuni sprazzi del film, la storia di Elia, un analista ebreo di mezza età, interpretato da Tony Servillo. Tutto il film è ambientato nel quartiere ebraico, nel ghetto di Roma. Si vedono anche scorci, tra l'altro, poco visti al cinema. Una moglie, una bravissima, Carla Signoris, con la quale vive praticamente separato in due stanze attigue, ma ben distinte. Insomma, un matrimonio che ormai è quel che è. Che incrocia una ragazza, una giovane personal trainer che lavora in una palestra, super precaria, buffa, eccentrica, interpretata da Veronica Eceghi, e che è l'opposto. Lui è tanto l'incarnazione della mente quanto lei è l'incarnazione del mito del corpo. Due personalità così opposte ovviamente nella commedia non possono che miscelarsi l'una con l'altra, dando esiti piuttosto comici. Boris, ma qui, se vogliamo, invece il milieu, il substrato al quale ci si riferisce come tipo di commedia è sicuramente più quello newyorkese. È chiaro che il nome di Woody Allen è il primo che venga in mente, no? Verissimo. C'è anche da dire però che c'è anche quel gusto squisitamente italiano di prendere Antognazzi e renderlo un attore sia di commedia sia drammatico. La verità è che secondo me a livello attoriale c'è la sensibilità tipicamente italiana, e come dici tu a livello narrativo e anche visivo l'utilizzo della casa come un set naturale, l'utilizzo di un rapporto in simbiosi ma allo stesso tempo in forte contrasto anche sociale tra i due protagonisti è molto alleniano. Però torniamo al discorso che facciamo per moglie e marito, che c'è questa nuova generazione. Francesco Amato, il regista di Lasciati andare, è uno che ha proprio vissuto per anni, negli anni dello studio, con Edoardo De Angelis, di Invisibili. C'è una generazione che si è parlata, che è cresciuta secondo formazioni diverse, che si è abbeverata ad Hollywood e ha saputo appunto rimasticarla, e qui ci riesce benissimo, un po' perché ha, secondo me, un'intuizione geniale, che è quella sugli attori, cioè prendere Carla Signoris, che è un'attrice straordinaria e molto sottovalutata, prendere Tony Servillo e regalargli finalmente una commedia, perché chiunque va a teatro sa quanto faccia ridere Tony Servillo, ed è ormai diventato paradossale che lui invece al cinema non faccia ridere, e poi però di fronte a Tony Servillo va a trovare un'attrice che non si sente in qualche modo condizionata dalla sua presenza con timore reverenziale, e allora prende una delle attrici migliori di Spagna, Veronica Eceghi, che aveva iniziato con Bigas Luna, con Io Soy Laquani, e che ha fatto forti, ha fatto tantissimo, e che non ha proprio per carattere ma anche per carriera quel tipo di timore reverenziale, e la bomba esplode nel senso più buono del termine, perché poi è scritto bene. Lantieri e Bruni sono molto bravi, è una scrittura molto misurata. Se proprio devo trovare un difetto, posso dire troppo misurata, forse ci poteva rischiare ancora di più. Servillo rischia con il suo corpo più di quanto ci faccia con la scrittura, però è anche giusto così, perché la commedia è elegante, è piena di grazia, e alla fine riesce, perché poi il regista sa qual è la sua idea estetica, sa dove vuole arrivare, e ci arriva benissimo. Quindi abbiamo bisogno, come l'acqua, di film di questo tipo, che sappiano essere eleganti e allo stesso tempo piacere al pubblico. e che siano intelligenti e che ci facciano andare avanti come industria e anche a livello artistico. Se vogliamo possiamo chiamarla una nuova commedia all'italiana, se vogliamo dargli un'etichetta, però insomma questi semi sembrano che stiano germogliando bene. Tutti mi considerano una disgraziata. Devi solo avere un po' di fiducia in te stessa. Voglio andarmene da qui. E io come faccio senza di te? Frequenti una donna giovane, bella e dall'aria anche molto sveglia, altro che minorata. Lasciati andare! Di più! E allora fra poco sarà con noi Tony Servillo. Salutiamo prima però Boris Sollazzo. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora adesso linea alla viabilità, fra poco Tony Servillo, protagonista di Lasciati andare qui alla Rosa Purpure. Expo due anni dopo. Dall'Agenzia Europea del Farmaco che lascia il Regno Unito a seguito della Brexit al nuovo polo tecnologico universitario. Le possibilità offerte dagli spazi costruiti per l'esposizione universale sono la nuova sfida che affronta Milano. Il nuovo viaggio di Radio 24 dal 17 al 22 aprile, ogni mattina nel GR delle 7. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qui, La Rosa Purpurea, la parte finale del nostro programma. Fra poco tutto il cinema da vedere a casa. Svegliamo il film misterioso di oggi, ma prima c'è Tony Servillo da farvi ascoltare per Lasciati andare. Ne abbiamo appena parlato con Boris Sollazzo, la commedia di Francesco Amato. E allora, abbiamo incontrato Tony Servillo a Milano e abbiamo cominciato proprio chiedendogli questo. Cioè, in questo film ci sono due personalità, due personaggi che tutto sommato hanno bisogno di una guida. È così importante oggi avere qualcuno che ci guidi? Beh, non lo so, certo è una situazione piuttosto paradossale, inedita, e credo che il paradosso, l'originalità sia un po' il sale di una storia di genere, di una commedia. Quello che sorprende in questo film, almeno ha sorpreso me e mi auguro sorprenda il pubblico, è che queste due persone che si incontrano per caso finiscono per risolvere la vita l'uno all'altro esercitando involontariamente la propria professione. In questo senso lasciarsi andare significa, come dicevo poco fa, non vivere la vita da professionisti 24 ore al giorno, ma qualche volta concedersi anche una pausa di sano dilettantismo, che significa abbandonarsi. Ecco, è la prima volta, come abbiamo detto, che Tony Servillo lavora a una commedia, diciamo un film apertamente di commedia, che ha come obiettivo appunto anche la risata. Com'è stata questa esperienza? Sì, desideravo da tempo avere la possibilità professionale di confrontarmi con una commedia a tutto tondo, è arrivata e l'ho accettata come una vera e propria sfida, e mi auguro che il pubblico la accolga con lo stesso entusiasmo che ci ho messo io nel recitarla. Nel film Servillo interpreta il ruolo di un terapeuta, di uno psicologo. Tutto sommato c'è qualche parallelismo col mestiere dell'attore? La terapia può essere un teatro in cui giocano diversi attori, no? Che sono il paziente, l'analista, insomma su questo c'è una ampia letteratura. Diciamo che però quello che diverte è che siamo proprio in un clima di totale eterodossia rispetto all'analisi, alla psicanalisi, alla metodologia, e questo è quello che diverte, e mi auguro che diverta anche gli analisti. Senti, Tony, cosa ha portato secondo te l'ambientazione in un mondo ebraico italiano dentro questo film? Ha portato intanto uno dei quartieri più belli della nostra capitale, piuttosto inedito al cinema, non raccontato così frequentemente. Ha aggiunto a questo gattone romano che è il mio personaggio, chiuso nella sua tana, che è il suo studio e la sua casa nel centro del ghetto a Roma, gli ha portato delle piccole nevrosi, delle piccole idiosincrasie, delle abitudini in cui si accomoda per resistenze di natura emotiva, per pavidità, per routine. E tutta questa calma, tranquillità borghese, intellettuale, viene scompaginata completamente dall'arrivo di Claudia, del personaggio interpretato da Veronica Ecchi. E l'ultima parte dell'intervista è cominciata cercando di strappare qualche parola, qualche dichiarazione sul film su Berlusconi, che Sorrentino sta preparando e di cui Tony Servillo sarà protagonista, ma l'attore è rimasto abbastanza abbottonato. Non ho ancora letto neanche la sceneggiatura, quindi siamo molto lontani da qualsiasi preparazione, quindi trovo improprio parlare di comicità. Non so ancora che film sarà, lo ha annunciato il regista e vedremo, sarà Sorrentino a stabilire che tipo di film sarà. Non ho nulla da dire sull'argomento. Tony, un'ultima curiosità che mi viene in mente: spesso si parla del lavorare del giovane regista che lavora con l'attore affermato, mi piaceva capire dal tuo punto di vista. Guardi, cioè di attore affermato che lavora con... Questa sarà la settima volta che mi capita di fare un'opera prima, anche con Sorrentino è stata un'opera prima, con Molaioli, direi anche con Cupellini, Una vita tranquilla, ho fatto il primo film da solo della coppia Cipri-Marisco, il primo film di Cipri. Credo che si partecipa a un'atmosfera che è qualcosa di sorgivo, cioè l'emozione che portano con sé tutte le cose che avvengono per la prima volta. C'è un entusiasmo, c'è l'entusiasmo della puerpera, c'è l'entusiasmo di ciò che accade per la prima volta, che corrisponde con la vita, no? Cioè ciò che vedi nascere per la prima volta. Questo è entusiasmante, quindi mi fa molto piacere. Naturalmente il copione deve essere convincente, la personalità del regista altrettanto, però poi stare accanto a qualcuno che fa nascere qualcosa è sempre molto emozionante. Tony Servillo alla Rosa Purpurea per raccontarci, avete sentito anche un po' di sfumature sulla sua partecipazione a Lasciate Andare, anche qualche piccola cosa legata al prossimo Berlusconi. E allora siamo arrivati al momento di raccontare un po' il cinema da vedere in casa, cominciando come sempre con l'annunciare i vincitori del nostro game di settimana scorsa. He must let you use a bedroom some weekends if you say please. Walk away. I should. But then again, what's the point of having fuck you money if you never say fuck you? Avevamo giocato con la prima stagione di Billions, la serie americana con Paul Giamatti protagonista, che tanto bene ha fatto e tante buone critiche ha riscosso nella sua appunto prima stagione. Adesso siamo già avanti con le stagioni successive. E allora i vincitori, coloro i quali hanno risposto al quale fosse il mestiere del protagonista appunto di Paul Giamatti, procuratore federale, e quale fosse invece la grande evento storico al quale era scampato il suo contraltare, cioè l'attentato dell'11 settembre. Insomma, Luca Tagliuti di Napoli e Maria Chiara Tonello di Vicenza sono i due ascoltatori che riceveranno il cofanetto della prima stagione di Billions, che è un'edizione molto bella, molto curata, con 4 DVD per poter gustare a pieno tutte le puntate di questa prima stagione, della quale ci facciamo raccontare un po' anche di questa edizione un video, qualcosa, dai nostri amici di Film TV. Ed è con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, parliamo della saga di un potentissimo procuratore distrettuale di New York che non ha mai perso un caso e deve affrontare una sfida importante, ovvero il caso di un miliardario, come dicevi tu appunto, scampato, l'unico socio scampato degli attentati dell'11 settembre 2001, che è stato alla guida di fondi speculativi finanziari, e così il nostro procuratore distrettuale è di fronte a una sfida veramente difficile sia a livello etico che professionale. Siamo di fronte a una di quelle narrazioni che vengono chiamate duali, cioè uno contro uno, con Paul Giamatti e Damian Lewis, che sono mattatori, una sfida all'ultimo sangue che conferma poi quella che della crisi finanziaria come una delle grandi narrazioni della contemporaneità. Una narrazione fatta di antieroi smangiati dal denaro, da moralità da risettare continuamente e dalla logica assolutamente ego-riferita del potere con la corruzione che sembra quasi essere sempre una base fondante dell'uomo. Sono una grande serie, ora disponibile in DVD con la seconda stagione già ampiamente avviata. E allora, questo appunto era il nostro game della settimana scorsa. Andiamo a guardare invece nei palinsesti della prossima settimana, cominciando da domenica 16 aprile, il giorno di Pasqua, alle 21:20, in prima serata quindi su Rai Movie, c'è Il giovane favoloso di Mario Martone. Sì, Martone si accosta alla figura di Leopardi e sceglie un distacco teatrale, cerca in questo distacco un realismo molto irrequieto che smentisce la superficialità delle cose, un realismo astratto con una colonna sonora che lo aliena continuamente, di un musicista tedesco che si chiama Apparat, è un realismo molto lacerato da prospettive immaginose, aperture fantastiche, squarci d'orrore interiore, e veramente strenato anche dalla recita di un Elio Germano che è sotto e molto spesso sopra le righe, comunque sempre fuori dalla giusta misura, da una misura anche un po' mortificante, come era assolutamente Leopardi. Quindi parliamo di un racconto sull'Italia di ieri che ci parla anche tanto dell'Italia di oggi, un film biografico totalmente antiscolastico che però è anche uno struggente compendio poetico, ed è un film molto molto lontano dal romanzo storico, dalla biografia diciamo melodrammatica che siamo abituati a ricevere dalla fiction televisiva. È un film che non vuole dimostrare niente, ma non si limita nemmeno a mostrare, ma insomma scuote il realismo e cerca di vedere poeticamente. E quindi l'appuntamento con Il Giovane Favoloso è su Rai Movie alle 21:20 di domenica 16 aprile. Martedì 18 invece vi consiglio vivamente di recuperare un film che non ha avuto secondo me l'esito che avrebbe dovuto avere, almeno di popolarità in Italia, perché è Dietro i Candelabri di Steven Soderbergh su Rai Movie alle 23. Sì, siamo nel 1977, la storia è quella della relazione tra segreta al pubblico, quantomeno, tra il famoso pianista Liberace, interpretato da Michael Douglas, e il più giovane Scott Thorpe, interpretato da Matt Damon. Soderbergh infila la macchina da presa diciamo tra il palco e le lenzuola e racconta un mito, Liberace, morto quasi 30 anni fa, che comunque è una figura di modernità estrema, un falsificatore geniale, un'icona attentamente costruita a tavolino e un grande manipolatore infallibile dei gusti del pubblico, una sorta di incantatore di serpenti che diventa anche l'emblema di una questione identitaria estrema e dolorosa anche fisicamente, si vede molto il lavoro sui corpi degli attori. Un film assolutamente da recuperare di un regista molto spesso sottostimato come Steven Soderbergh. Dietro i Candelabri su Rai Movie alle 23 di martedì 18 aprile. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, la prossima. E siamo giunti alla fine, come ci dice la regia, con le note della nostra sigla. E allora, due cose. Uno, vi dico qual è il film misterioso di oggi: Animali fantastici e dove trovarli. Settimana prossima, recensione e vincitori. Due, buona Pasqua a tutti. La Rosa Purpurea ritorna sabato prossimo. Passate una serena Pasqua e magari andate al cinema. Un saluto da Franco D'Assisi.